Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Oggi abbiamo con noi, sono particolarmente felice di presentarvi, la professoressa Maria Letizia Bertotti, che insegna alla Libera Università di Bolzano, nella Facoltà di Scienze e Tecnologie. Abbiamo scoperto, e per quello che ci siamo un po' dilungati perché ha fatto il liceo classico, ci siamo messi a parlare dei professori di matematica del nostro passato. E questa è una settimana dove iniziamo appunto con oggi, con degli appuntamenti di nuovo dedicati alle scienze, e il prossimo sarà venerdì con il professor Fuso. Nella convinzione, ecco, abbiamo organizzato queste iniziative nella convinzione, e andremo avanti, di voler richiamare l'attenzione anche sull'aspetto appunto scientifico, su una lettura scientifica della realtà, facendoci aiutare da professionisti, da esperti, per così individuare sempre nuove vie e nuovi contenuti da offrire e sollecitazioni da dare al pubblico che frequenta questa biblioteca. Noi abbiamo appunto questa ambizione nel polo bibliotecario di costruire anche una sezione dedicata alle scienze, alla matematica, e in questi 4 anni che ci separano dall'avvio di questo nuovo progetto, faremo spesso, ecco, delle conferenze di questo genere. Mi dispiace solo che stasera coincida, purtroppo, pur avendolo già da tempo programmata questa, con un'iniziativa anche alla Civica, e quindi stesso orario, stesso giorno, ci siamo trovati un po' in difficoltà, ma nulla ci toglie il piacere, la curiosità di ascoltare, è vero, con la professoressa Bertotti, che è qui con noi e che ringrazio tantissimo, e spero di poterla avere ancora come ospite in futuro, e soprattutto poi anche nel polo bibliotecario, quando ci sarà un altro contesto anche più grande e di sicuro anche più accogliente. Grazie ancora. Volentieri, bene. Grazie a voi. Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qua, e ringrazio molto si sente? La dottoressa Valeria Trevisan. Mi piacciono queste iniziative sicuramente. Siamo atomi sociali. Nel formulare questo quesito mi sono ispirata al titolo di un libro di Mark Buchanan, titolo che per l'appunto è L'atomo sociale. Mark Buchanan è un fisico statunitense che si occupa di divulgazione scientifica ad alto livello, è stato redattore di Nature, di New Scientist, ha scritto per il New York Times, ed è in particolare autore di vari libri, dei quali 2 almeno sono tradotti in italiano, sono per l'appunto L'atomo sociale e Nexus, perché la natura, la società, l'economia, la comunicazione funzionano allo stesso modo. Sono libri editi negli Oscar Mondadori, e nei suoi libri si occupa di idee della fisica moderna, in particolare di quei concetti elaborati dalla fisica per cercare di capire, di spiegare anche fenomeni che osserviamo in ambito biologico o socio-economico in particolare. E fra i temi chiave ci sono, e ne parleremo e spiegherò un attimo questi termini successivamente, il fenomeno dell'emergenza, dell'auto-organizzazione di sistemi complessi. Ho scelto questo titolo perché vi vorrei proprio parlare di una nuova, come la chiamiamo, prospettiva, un punto di vista, un approccio, una filosofia che ha un carattere fortemente interdisciplinare, perché vede il concorso, il contributo di discipline diverse: fisica, matematica, informatica, ma anche economia, sociologia, biologia e così via. Una nuova prospettiva nell'approccio, nello studio di problemi che si presentano in ambiti diversi, e che andrò a spiegare fra breve, In particolare, siccome io sono una matematica, vorrei cercare di dare un'idea di qual è il contributo che anche la matematica può dare in questo ambito, in queste problematiche. Dicevo, vorrei parlare di una nuova prospettiva nell'affrontare problemi, per darvi un'idea, che possono essere in ambito biologico, ad esempio, diciamo, beh, ci sono società di insetti, non so, come ad esempio le formiche, società nelle quali l'individuo magari non è, come dire, intelligentissimo, così, però nel complesso c'è una, possiamo notare che c'è una un'organizzazione veramente incredibile. Oppure, come possiamo spiegare che stormi di uccelli volano e descrivono certe forme anche affascinanti senza che ci sia un leader propriamente che dice adesso andiamo di qua, adesso andiamo di là? Oppure come si formano le opinioni in una comunità? Oppure come si forma la curva di distribuzione del reddito? Ecco, tutti questi sono esempi di problemi nei quali possiamo osservare che abbiamo a che fare con un sistema, diciamo, costituito da numerosi elementi, che possono essere gli individui di una società, gli insetti di un certo gruppo, così, eterogenei, anche caratterizzati da proprietà diverse, e dalle interazioni fra questi elementi emergono comportamenti collettivi, certe strutture che noi possiamo osservare, diciamo, a livello collettivo, posso dire a livello macroscopico. La nuova prospettiva di cui vi vorrei parlare pone proprio le interazioni fra questi elementi, fra gli individui, diciamo, di queste società, al cuore del problema, cioè riconosce che le interazioni sono un elemento cruciale, e quindi cerca di spiegare dalla conoscenza del tipo di interazioni che avvengono, diciamo, fra gli elementi, dirò a livello microscopico, cerca di spiegare come da queste interazioni emergono, per l'appunto, a livello macroscopico, cioè a livello osservabile, a livello collettivo, come dicevo, le strutture, i fenomeni che noi possiamo osservare. E giusto per dare, diciamo, qualche conferma, insomma, a questo tipo di approccio, riprendo qua una considerazione che il grande fisico Ludwig Boltzmann ebbe a fare in occasione di una conferenza, ad un congresso scientifico verso la fine della sua vita. Ludwig Boltzmann ha dato grandi contributi alla meccanica statistica, alla teoria cinetica dei gas. Nella teoria cinetica dei gas succede proprio questo: si sa che c'è un numero elevatissimo di particelle, diciamo atomi, molecole, che si muovono in modo casuale, ad esempio all'interno di un recipiente, e collidono obbedendo a certe leggi newtoniane, secondo le quali si conservano certe quantità fisiche, che sono l'energia cinetica, quantità di moto, così via, e dalla conoscenza delle leggi a livello microscopico si traggono informazioni su grandezze macroscopiche, la temperatura di un gas, la pressione, così via. Quindi questo in ambito fisico. Ma, ebbe a dire Boltzmann, a questo punto possiamo anche alludere, immaginare alla prospettiva, all'ampia prospettiva che ci si apre davanti, che è quella di applicare queste metodologie, questa scienza, anche alla statistica di esseri animati, di esseri umani, della società, e non solamente a particelle meccaniche. E a questo proposito vorrei anche ricordare che la statistica, alla quale noi pensiamo come ad una disciplina tecnica che si pone lo scopo di studiare, diciamo, quantitativamente certi sistemi, la statistica originariamente è proprio nata come statistica sociale, come, diciamo, un insieme, insomma, di metodi per ragionare in modo quantitativo con delle cifre su cose che riguardano lo Stato, il governo, infatti etimologicamente, no? Status nel senso proprio anche di Stato politico. Nata quindi per analizzare in termini matematici fenomeni sociali. I sistemi, diciamo, dei quali andiamo ad occuparci vengono classificati come sistemi complessi, quindi per riassumere, poi darò degli esempi in concreto, ma per riassumere gli elementi caratterizzanti sono sistemi composti da un numero elevato di elementi interagenti, quindi non si può cercare di studiare l'evoluzione, la dinamica dei singoli elementi, e sono caratterizzati da questo che chiamiamo emergenza, che è un comportamento collettivo, auto-organizzato, che non si potrebbe dedurre e capire andando a guardare i singoli elementi, i comportamenti dei singoli elementi. E questo comportamento emergente non è il risultato dell'esistenza di un controllore centrale, di un leader, come dicevo prima. E ricordo anche che si usa proprio il termine sistemi complessi, a differenza diciamo di quello che potrebbe essere un sistema complicato. Complicato deriva dal latino cumplicare, quindi piegato, arrotolato assieme, però qualcosa che si può aprire, di cui si possono analizzare le parti una alla volta separatamente. Complesso deriva dal latino cumplectere, e plectere, plector vuol dire intreccio, quindi è un insieme in cui è fortissima l'interconnessione, diciamo, fra gli elementi. Quindi un sistema complesso non si può scomporre in sottoparti, ma va analizzato proprio nel suo complesso. E gli esempi in particolare di cui andrò a parlare fra poco sono riferiti soprattutto alle scienze socio-economiche, infatti mi sta a cuore proprio mostrare come possa essere utile, diciamo, il contributo, diciamo, di scienze cosiddette dure, no? La matematica, la fisica e scienze che tradizionalmente si collocano in scienze umanistiche. E qui ho riportato, diciamo, le fotografie di quattro economisti, diciamo, di peso, che hanno nel tempo maturato la convinzione proprio che sia necessario anche in economia questo nuovo approccio. Perché in economia, diciamo, nel mainstream, no? Nell'impostazione più tradizionale, ci si basa su un agente rappresentativo che ragiona razionalmente, che vuole ottimizzare il suo profitto, ma insomma siamo molto lontani dalla realtà, perché innanzitutto gli individui, per esempio, sono diversi, non tutti hanno lo stesso livello chiaramente di capacità di ottimizzare il proprio profitto. E questi economisti, di cui vi dico due parole, hanno invece sottolineato e sottolineano, sono tutte persone viventi, l'importanza di un approccio che tenga conto della eterogeneità anche degli individui che costituiscono il sistema economico. Allora, Thomas Schelling sono tutti viventi, dicevo, e partiamo dal più grande di età, che è Thomas Schelling, è un premio Nobel, in particolare è famoso per un modello di segregazione di cui vi dirò qualche parola più avanti, e Alan Kierman è un membro, adesso professore emerito di Marsiglia, dell'Università di Marsiglia, ed è un membro dell'Institute for Advanced Study di Princeton. E Brian Arthur è uno dei fondatori, diciamo, di un istituto che si trova in California, l'Istituto di Santa Fe dei Sistemi Complessi, che è un istituto nel quale hanno avuto l'idea di mettere assieme fisici, economisti, insomma persone di discipline diverse, proprio perché cercassero di trovare un dialogo e di portare ciascuno i contributi della propria disciplina ad integrarsi con gli altri. E poi volevo anche un nome italiano, Mauro Gallegatti è un professore dell'Università di Ancona che si occupa di queste cose. Ed è nata anche una branca nella fisica che viene chiamata econofisica. Questo nome l'ha coniato Eugen Stanley, che è un fisico anche lui statunitense. E l'econofisica ormai è un settore che ha uno spazio suo proprio sulle riviste scientifiche e viene chiamata così perché si basa su metodi e strumenti che sono stati originariamente sviluppati nell'ambito in particolare della meccanica statistica, della teoria cinetica dei gas e che vengono adattati opportunamente ad affrontare problemi per l'appunto di ambito non strettamente fisico. Allora a questo punto vorrei anche dire, ma cosa c'entra poi la matematica in tutto questo? E allora soffermarmi e dire, la matematica in realtà è un campo molto vasto che comprende diciamo sottosettori diversi, naturalmente tutti collegati, dico diversi per il tipo di strumenti che impiegano e anche di problemi che trattano, a parte l'aritmetica, l'algebra, la geometria, l'analisi, ricerca operativa, analisi numerica e così via. E magari insomma chi non interagisce quotidianamente con la matematica, della matematica resta un ricordo da quello che si è visto a scuola, per cui uno ricorda questi lunghi calcoli, equazioni, parentesi, quadre, grafe, tonde, logaritmi, così. In realtà in mezzo a tutte le cose belle che la matematica offre, dal mio punto di vista lo strumento più potente è la capacità, gli strumenti che la matematica offre adatti a studiare la variazione, quindi ad esempio la variazione nel tempo. Questo vuol dire fenomeni evolutivi, fenomeni che cambiano. Cioè la matematica, mediante quello che si chiama il calcolo differenziale, e lo strumento basilare è la derivata, forse insomma qualcuno così, ha la capacità di descrivere in un linguaggio, diciamo una sorta di algoritmi, in un linguaggio spesso tradotto da quelle che si chiamano equazioni differenziali, ha la capacità di descrivere in questo linguaggio e rappresentare dei modelli del mondo reale. Del mondo reale può essere presi per l'appunto dalla biologia, dalla sociologia, dall'economia, dalla medicina, insomma da tutto ciò che cambia. Creare un modello matematico vuol dire osservare un fenomeno reale, domandarsi come funziona e cercare di replicarlo mediante per l'appunto un modello che è un'astrazione, una stilizzazione, quindi bisogna saper cogliere diciamo gli ingredienti essenziali, perché la realtà è ricchissima naturalmente, bisogna saper capire quali sono gli ingredienti essenziali e per l'appunto tradurli in quello che ho detto possiamo chiamare una sorta di algoritmo. A quel punto, con il suo rigore, con tutto l'apparato diciamo tecnico che è stato sviluppato nel corso degli anni, si fa un'analisi del modello, si trae un risultato, si cerca di riconfrontarlo con quello che si vede nel mondo reale, eventualmente poi si corregge il modello. E io a questo punto non riesco ad esimermi dal farvi, a titolo di esempio, prima di entrare poi nel corpo vero e proprio, non riesco ad esimermi dal dirvi qual è un modello che per me resta sempre qualcosa di magico, diciamo. Pensiamo, diciamo, noi tutti studiamo fin da quando siamo piccoli, impariamo che nel corso di un anno la Terra percorre un'orbita ellittica attorno al Sole, e il Sole rappresenta uno dei fuochi. Però potremmo domandarci, ma perché poi succede questo? Per esempio gli antichi, no, al tempo degli scrittori latini che noi studiamo, pensavano che ci fosse un sistema di sfere concentriche e i pianeti si muovessero lungo delle circonferenze. Quindi potremmo pensare, ma perché non una circonferenza, proprio un'ellisse, oppure perché non se ne va via diritta lungo una retta? Cioè, ci sono gli angeli dietro che fanno curvare. Bene, pensate che questo problema, questo quesito lo si può risolvere con gli strumenti che gli studenti hanno dopo un anno di un corso di laurea di matematica, fisica, ingegneria. Al secondo anno, con la meccanica razionale, si può spiegare benissimo perché questo succede. E pensate com'è stilizzato il modello. Si parla di problema dei due corpi perché si pensa al Sole e alla Terra, ma il Sole e la Terra vengono assimilati a quelli che chiamiamo due punti materiali, cioè ci dimentichiamo che in realtà la Terra è quasi un globo e poi ci sono le montagne, poi c'è il mare, tutto quanto, poi c'è l'atmosfera. No, pensiamo che siano due punti materiali soggetti all'attrazione gravitazionale, e qui Newton ci ha dato un grandissimo aiuto perché ci ha spiegato che la forza con cui si attraggono questi due punti materiali è direttamente proporzionale al valore delle masse, inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. Quindi il modello è due punti materiali che si attraggono con questa forza. Che moto compiranno l'uno rispetto all'altro? Ebbene, si scrivono le equazioni differenziali, si riesce a trattarle e si vede che, per esempio, la Terra rispetto al Sole non potrebbe percorrere altro che una curva della famiglia delle sezioni coniche, e nelle condizioni di energia che ci sono, in particolare una ellisse, cioè si spiega proprio precisamente questo fatto. Quello che voglio dire, il modello è assolutamente scarnificato e semplificato. Si può anche fare di più, perché se poi si pensa che la Terra sia un solido, come si dice, a struttura giroscopica, il fatto è che è una specie di sfera con i poli un po' schiacciata ai poli, beh, allora si vede che se questo è l'asse che passa per il polo nord e il polo sud, i moti possibili sono quelli che si chiamano di precessione, secondo i quali c'è una continua rotazione sia della Terra attorno al proprio asse, che è quella che dà l'origine al giorno e alla notte, sia anche di questo asse attorno all'asse che è ortogonale al piano in cui giacciono Sole e Terra. Questo esempio quindi lo faccio per dire che la matematica deve fare delle grandi semplificazioni, ma quando queste semplificazioni sono buone ci può aiutare, ci può dire moltissimo, perché ci dice, ci spiega perché succede questo. Quindi pensate a quanto può essere il contributo, ad esempio, in campi come l'astronomia. Ma adesso voglio ritornare sul tipo di problemi di cui ho cominciato a dire qualcosa prima, e quindi darvi qualche esempio che possiamo collocare nelle scienze naturali in ambito socio-economico. E inizio, diciamo, con qualcosa che può essere per l'appunto anche un po' poetico: uno stormo di uccelli in volo. Bene. Comportamento collettivo che noi vediamo lo possiamo spiegare come risultato di regole semplici di interazione dei singoli elementi, dei singoli uccelli, in questo caso ciascuno riferito ad un certo intorno, quindi localmente con gli uccelli che stanno abbastanza vicini. Naturalmente queste regole sono state plasmate dall'evoluzione, ma quello che vi farò vedere fra un attimo, vi farò vedere quello che vi dico, è che si possono costruire dei modelli postulando un tipo di interazione fra questi elementi dell'insieme, che poi possono portare appunto a questi movimenti collettivi. Qui ho preso una descrizione, diciamo, dalla Treccani, e ho cercato di fare questa rappresentazione. Pensiamo di modellare il singolo uccello come se fosse un punto materiale, e queste frecce stanno ad indicare le velocità. Bene, immaginiamo di delimitare tre intorni, diciamo, tre circonferenze che delimitino delle distanze via via più grandi, e si può pensare che quando guardo cosa succede qua nel cerchio più piccolo, quando due uccelli sono abbastanza vicini, beh, allora tendono ad allontanarsi per non entrare in collisione. Hanno imparato che se si va uno contro l'altro ci si scontra. Quando sono ad una distanza l'uno dall'altro, in quella zona anulare, cioè uno lo prendiamo nel centro, diciamo, e l'altro nella zona anulare, tendono ad allinearsi. Quando sono sufficientemente lontani, però ancora l'uno rispetto all'altro, però ancora ad una distanza non troppo grande, in modo che comunque ci sia interferenza, tendono ad avvicinarsi. Perché? Perché andare in gruppo ci si protegge, insomma, è più conveniente. Bene, a partire dai lavori di Smale, che è un grande matematico che ha capito tante cose importanti e che ha fatto il primo modello, c'è tutta una serie di ricercatori che hanno fatto degli studi nei quali postulano semplicemente questi tre tipi di comportamento e in base a quelli, grazie poi alle simulazioni potenti che i computer al giorno d'oggi possono fare, ricostruiscono proprio questi tipi di andamenti, così come gli stormi degli uccelli. Vi ho poi parlato prima di Schelling e ho detto che è famoso per un certo modello di segregazione, e questo modello funziona in questo modo. Schelling voleva indagare gli effetti che non forme di razzismo, ma una semplice preferenza, che è una cosa naturalissima, di avere almeno una certa percentuale di individui simili nel proprio intorno, gli effetti che questa preferenza può creare sulla distribuzione spaziale di una popolazione. Allora, sempre semplifichiamo le cose e pensiamo ad una città che modelliamo come una griglia, come una sorta di scacchiera, e immaginiamo di avere individui appartenenti a due gruppi, diciamo i rossi e i verdi, per esempio, e immaginiamo di porre un individuo in una casella, ma senza riempire tutte le caselle. Allora, vedete, al centro c'è una casella nera, immaginate che questo sia un individuo, vedete che il suo primo intorno è costituito da 8 caselle. Allora potremmo ad esempio immaginare che gli individui di una delle popolazioni si sentano a proprio agio, ciascuno si sente a proprio agio se fra queste 8 caselle circostanti, che ne so, almeno 4 sono occupate da individui del proprio colore. Oppure magari l'altro gruppo è più tollerante, dice mi basta che ce ne siano almeno 2, perché devo sentire di avere una certa similitudine attorno a me. Quindi si può giocare poi con questi parametri, quanto quale può essere questa soglia che rassicura, 4, 2, 3, quello che si vuole. Bene, e il modello è quello che si chiama un modello ad agenti computazionale, cioè un modello computazionale, non ha neanche una teoria matematica sotto, e funziona in questo modo. Immaginiamo di dare una distribuzione casuale all'inizio, mettere alcuni agenti rossi a caso, alcuni agenti verdi, e poi uno alla volta di pescare a caso uno, prendo questo agente, guardo se lui si ritiene soddisfatto del proprio intorno, se sì lo lascio lì, se no lo sposto ad occupare a caso una casella libera. E diciamo il computer va avanti e fa un sacco di passi per cui si vede la situazione cambiare, ma alla lunga va verso una soluzione che diventa stazionaria, cioè non c'è più, diciamo, una dinamica. E sapete com'è? È così. Ho preso da internet queste immagini perché io non ho lavorato personalmente su questa cosa, ma vedete, all'inizio c'è un certo stato iniziale in cui c'è stata una distribuzione casuale, le caselle bianche sono quelle vuote, poi alcune sono occupate da rosso, alcune da verde. Bene, lo stato stazionario, per così dire, alla fine è quello che è riportato nella griglia a destra, cioè quello che si vede è che si formano proprio queste isole, in qualche modo, questi gruppi. E questo Schelling lo fece perché voleva mostrare che non necessariamente c'è un fenomeno di razzismo dietro a questo, ma qualcosa che è più lieve, semplicemente, insomma, una preferenza di sentirsi circondati da persone simili. Quindi anche questo, vedete, è un esempio in cui abbiamo un sistema con tanti elementi interagenti, si postula una qualche regola secondo la quale questi interagiscono, si muovono, e alla lunga l'effetto è questo effetto che noi osserviamo a livello macroscopico. Un problema invece del quale io mi sono occupata personalmente in collaborazione anche con un collega della mia facoltà è quello legato a come si forma la curva di distribuzione del reddito. E qui, se ad esempio prendiamo uno dei rapporti della Banca d'Italia oppure dell'Istat, questa figura è presa da un rapporto degli ultimi anni dell'Istat, vediamo che grosso modo la distribuzione del reddito può essere ha una forma di questo tipo. Questo vuol dire, ok, chi guadagna, che ne so, meno di 50.000 euro all'anno, ok, c'è un certo numero, poi aumentiamo il reddito, magari il numero di persone tali che è più grande, poi però all'aumentare del reddito questo numero va diminuendo, diminuisce. E la cosa interessante è che all'inizio del secolo scorso, quindi 1900 e rotti, Vilfredo Pareto, che era un ingegnere economista italiano, osservò che in paesi diversi, con regimi diversi, in epoche diverse, la curva di distribuzione del reddito ha questo andamento qualitativo e anzi la coda, quando si va verso i redditi più alti, è quella che viene chiamata in inglese una fat tail, una coda grossa, abbastanza larga, cioè decresce meno rapidamente che non ad esempio le code di certi fenomeni fisici che scendono, in gergo si dice in modo esponenziale. Si dice che questa coda decresce con una legge di potenza, come 1 su R alla alfa se R rappresenta il reddito. Ok, e a questo proposito allora quello che mi sono domandata assieme al mio collega è come si potrebbe fare un modello che spieghi perché succede questo? Allora, non entro in cose tecniche, ma anche con l'aiuto di qualche disegnino vi do un po' l'idea di quello che si può postulare. Abbiamo pensato, ok, si divide la popolazione in un numero finito di classi che è distinte, ciascuna distinta dal reddito. Quante? Più classi mettiamo e più sarà fine, diciamo, il risultato che riusciamo ad ottenere. E quindi introduciamo un numero n di redditi, che sono i redditi delle varie classi. E immaginando così in prima battuta che quando si parla di tasse si possa pensare ad aliquote come delle percentuali attribuite a ciascuna classe, c'è la classe che paga il 20%, il 30%, il 40% e così via, mettendo anche insieme IVA, IRPEF, quello che è, ok? Pensiamo appunto ad un numero n di aliquote che caratterizzano fiscali, che caratterizzano queste classi, e ci possiamo domandare come varia nel tempo il numero di individui che stanno nella iesima classe, quindi indico la frazione di individui che stanno nella iesima classe. Immaginiamo una popolazione che rimane costante nel tempo, così, e prendiamo una unità di misura di scambio. E l'idea è un pochino questa. Quando un individuo della classe H deve pagare un individuo della classe K, per esempio io vado dal medico, gli devo pagare 200 euro, ok, gli do questa quota, e il medico, supponendo per adesso che di vivere in una società virtuosa, dovrà pagare le tasse al governo, quindi pagherà una percentuale, non lo so, pagherà il 40% di questo denaro, che a sua volta il governo virtuoso distribuirà, diciamo, a tutti i cittadini, nel senso che procura la sanità, le scuole, l'istruzione e così via, diciamo welfare. Bene, vedete, fin tanto che pensiamo che tutto avvenga secondo le regole, è un po' come dire che l'individuo della classe H ha pagato una parte, per esempio il 60% di quei 200 euro al medico, all'individuo della classe K, e una parte l'ha versata automaticamente al governo, va nelle tasche del governo che la redistribuisce a tutti. E quindi dimentichiamoci anche del governo e di sostanza abbiamo delle interazioni, degli scambi di denaro in ultima analisi fra l'individuo della classe H e l'individuo della classe K, sono degli scambi per così dire diretti, e gli scambi indiretti in qualche modo del beneficio che dall'individuo della classe H passa a tutti gli altri. Ok, allora descrivendo questa certamente rudimentale, insomma molto schematica, idea di come si possa immaginare gli scambi di denaro, descrivendola in termini tecnici mediante equazioni differenziali e introducendo degli elementi di probabilità, perché si deve pensare qual è la probabilità che un individuo che ha questo reddito interagisca con un individuo che ne ha questa. Quindi inserendo degli elementi, diciamo, su base fenomenologica, per così dire, che poi insomma ciascuno magari a livello più veritiero o meno può farsi un'idea, ed introducendo anche eterogeneità nei comportamenti degli individui di classi diverse, perché chiaramente queste eterogeneità ci sono. Per esempio, un ingrediente essenziale è, noi sentiamo dire che se non ricordo male, non lo so, Marchionne guadagna, mi ricordo, 400 volte tanto quanto l'ultimo operaio, diciamo. Va bene, allora diciamo, chiaramente mangerà molto meglio, mangerà delle cose di lusso, cioè, ma non è che può spendere 400 volte di più dell'operaio per mangiare, quindi accumula in qualche modo sempre una parte di denaro, e quello andrà a spiegare perché ci sono queste code, diciamo, che sono più alte che in altro. E guardate, noi scriviamo queste equazioni differenziali, che sono delle equazioni complicatissime, non lineari, così. Cerchiamo in quanto possibile di dare un supporto analitico, matematico, diciamo, per giustificare certe cose, e poi compiamo delle simulazioni. E qui c'è l'esito di una simulazione in cui abbiamo pensato, per cercare di avere una forma, diciamo così, che sia simile ad una forma continua, a 25 classi di reddito, e una forma di un diagramma di questo tipo si ottiene dando all'inizio una distribuzione casuale di numero di individui nelle classi, pur che ci sia che la parte più consistente sta verso la zona povera piuttosto che verso la zona ricca, che è una ipotesi, diciamo, assolutamente ragionevole, in linea con la realtà. Bene, allora si vede che ci sono questi scambi fra individui nelle classi, e quindi nel tempo questi istogrammi variano, ma alla lunga si tende verso quella che è una soluzione stazionaria e che ha questa forma. E se ricordate, questa è una forma, diciamo, che replica proprio il tipo di forma delle curve di reddito che vengono osservate nella realtà. Allora qual è l'interesse, diciamo? E quindi ecco perché ancora una volta il concorrere delle interazioni fra tanti elementi, le nostre ipotesi ci portano a capire quale può essere, diciamo, un risultato collettivo, un risultato macroscopico osservabile. E qual è l'interesse? L'interesse è che con le simulazioni dei modelli matematici possiamo poi andare a prevedere scenari diversi, perché per esempio quello che ci siamo domandati è, se si volesse una società nella quale per esempio ci sono meno classi molto povere e classi molto ricche, e sia più corposa la classe media, come dovrebbero essere scelte le aliquote? Le aliquote, che nel nostro modello virtuoso sono quelle per cui c'è una redistribuzione alla società. Oppure abbiamo studiato l'effetto dell'evasione fiscale, andando a postulare l'effetto dell'evasione fiscale in questo senso, andando a postulare che l'individuo K che riceve il denaro in una transazione non versi tutto quello che deve. E anche qui il modello ci porta a vedere che l'effetto finale è che aumentano i molto poveri, aumentano i molto ricchi, cioè questa è una cosa che generalmente va a scapito della classe media, sembra pure una cosa ragionevole. E adesso stiamo cercando di studiare, ad esempio, quale può essere l'effetto di un welfare differenziato, che in una qualche misura anche esiste, e quindi una redistribuzione che sia più pesante verso le classi meno abbienti piuttosto che quelle più abbienti. Quindi ecco, la matematica offre degli strumenti anche per fare queste simulazioni, e naturalmente ove esse siano confortate dalla competenza di economisti politici e così, sarebbe l'ottimale, sarebbe l'attenzione dei policy maker, no? Dei politici, può avere un suo valore. Un altro tipo di argomenti, diciamo, da affrontare in questo modo è la formazione delle opinioni, e che è un tema anche che dal punto di vista matematico ho studiato in collaborazione con un collega del Politecnico di Torino negli anni passati. E qua l'idea può essere così: immaginiamo di avere un insieme finito di opinioni relative ad un qualche tema, ordinato, che vuol dire graduato, per esempio, non so, diciamo, che ne pensi delle unioni gay? Uno, come nei questionari, può dire: oh, sono assolutamente contrario, sono tendenzialmente contrario, neutrale, tendenzialmente favorevole, decisamente favorevole, e quindi prendere un numero graduale, insomma ordinato in questo senso, di opinioni. E immaginiamo di che avvengano degli scambi fra gli individui, e uno dei fenomeni che è stato studiato è, per esempio, l'ingrediente legato al compromesso. Si può pensare che individui che hanno opinioni sufficientemente vicine, cioè fissiamo una soglia di vicinanza, possano, interagendo, avvicinarsi ulteriormente, mentre magari individui che hanno opinioni molto distanti non si trovano neanche, non si parlano neanche. Uno potrebbe anche postulare delle altre componenti, l'abbiamo anche fatto in qualche lavoro. Per esempio, ogni tanto ci sono dei fenomeni per cui uno dice: ah, basta, ho sempre votato così, adesso di mio basta, sono stufo, voto da un'altra parte, oppure basta, sono stufo di andare in montagna, quest'anno vado al mare. Cioè anche delle componenti, diciamo, di noia, così. Ma fermiamoci un attimo su questa componente dovuta al compromesso fra individui che hanno opinioni sufficientemente vicine. Beh, cosa vi aspettereste che possa succedere alla lunga? Magari uno potrebbe dire: ma forse ci sarà un consenso. Invece no, col solo ingrediente di compromesso, quello che si vede è che alla lunga si formano dei gruppi di opinioni, cioè il pluralismo. Per esempio, questi grafici che sono qui sono pensati in questo modo. Guardiamo qua, abbiamo n uguale 27, vuol dire che uno, molto difficile pensare a una gradualità di 27 opinioni, ma è per cercare di avere una rappresentazione prossima al continuo. Immaginiamo che ci siano 27 possibili opinioni, non so, come se avessimo un ordinamento dalla sinistra alla destra, ad esempio in politica, di diversi partiti, e che ci sia una soglia di vicinanza pari a 3, come dire, gli individui che hanno opinioni che distano minore o uguale di 3 sono suscettibili di questo compromesso. Bene, alla lunga non si va verso il consenso, ma si va verso la formazione di gruppi di opinioni, e qui ci sono parametri diversi. Questo noi l'abbiamo studiato con queste tecniche, con queste equazioni matematiche nelle quali entrano questi ingredienti che tengono conto di probabilità, si dice, di stocasticità. Cioè, intendiamoci, quando dico alla lunga succede questo, si può prevedere questo, non è che stiamo dicendo fenomeni di magia, potremmo dire cosa voterà lei o cosa voterà lei, ma diciamo le evoluzioni possibili sono di questa tipologia quando si mettono le ipotesi, diciamo, ragionevoli. E anche qui si possono studiare tante cose, perché si può vedere qual è l'effetto se ci sono dei cosiddetti persuasori, cioè degli elementi, diciamo, che da fuori il sistema spingono per convincere verso una qualche opinione o così via. E così come questi, spero di avere dato un pochino l'idea del tipo di problematiche, Altri esempi di sistemi che vengono studiati con questo approccio, diciamo, che si chiama dei sistemi complessi, sono la folla. È interessante capire come si muove la folla in situazioni di panico, quando si deve ad esempio sgomberare un teatro o una cosa di questo tipo. La folla è costituita da tanti individui che interagiscono e, scontrandosi, poi si muovono in un modo o nell'altro. Oppure flussi di traffico veicolare, oppure sistema complesso per antonomasia è il cervello, con le sinapsi che costituiscono queste linee di interazione, oppure tanti economisti studiano i mercati azionari, finanziari e così via. E un altro concetto, e sono verso la chiusura, un altro concetto importante in quest'ambito è quello di cui ormai si sente parlare moltissimo, delle reti, dei network. Allora, naturalmente ha rilevanza per i fenomeni che si studiano capire quali sono, quante sono le connessioni. Ci sono individui che hanno tante connessioni, quindi ad esempio tante persone con cui interagiscono, tanti amici, tanti conoscenti, sono individui che hanno meno connessioni. Studiare le reti è una cosa molto importante, per esempio nei problemi di diffusione di epidemie, che naturalmente ha rilevanza il fatto che ci siano quelli che sono dei nodi centrali che hanno tante connessioni, quindi diffondono in fretta piuttosto che nodi isolati. E questo concetto di reti, che possiamo pensare come le relazioni nel caso degli individui, viene studiato immaginando che gli individui siano, vedete, come dei punti, dei vertici che sono connessi da linee. Queste linee sono appunto le relazioni. Per esempio, quando si considerano gli aeroporti, ci sono quegli aeroporti che hanno, dai quali partono voli in tantissime direzioni, quindi sono delle reti, come ad esempio potrebbe essere questa, ci sono questi nodi cruciali, poi ci sono degli aeroporti più piccolini come quello di Bolzano, da cui partono un volo per Roma, forse uno per Vienna e così via. Ok, quindi non si può parlare di queste cose senza nominare le reti, i network di computer e così via. E quindi, in definitiva, per stare dentro al tempo, io dico, la mia risposta al quesito: siamo atomi sociali? Sì, siamo atomi sociali, ma naturalmente siamo atomi molto complessi, perché rispetto alle particelle fisiche abbiamo la nostra personalità, i sentimenti, e a nostra volta, insomma, siamo molto complessi. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Grazie mille per la interessantissima relazione, anche esposta in maniera chiara, siamo riusciti a stare attenti tutti. Malgrado la complessità dell'argomento, dell'impossibilità di comprendere tutto, è stato piacevole sentire, perché il modo di presentare era, diciamo, allettante, per cui tutto sommato si sembra di capire che ci sia un grande divertimento dietro a tutto questo ragionare scientifico. Ecco, questo mi ha divertita, diciamo, tra virgolette, nella sua relazione, non essendo in grado io di capire a livello scientifico pressoché nulla di quello che lei ha detto. Però ho intuito, mi è sembrato di sentire un divertimento insito nella capacità di ragionare in maniera così complessa, diversa, combinando elementi a piacere in un certo senso, pur restando all'interno di determinate leggi. E dico, beh, queste persone si divertono facendo questo lavoro così complesso e difficile, che può sembrare molto ostico alla casalinga, quindi, insomma. È vero, perché l'idea un po' è, in definitiva, noi cerchiamo di capire, tutti cerchiamo di capire il mondo in cui viviamo, no? I diversi aspetti, e dicevo, una nuova prospettiva, in realtà uno potrebbe dire, beh vabbè, ma cosa c'è di nuovo? Di nuovo è proprio questa attenzione, questo coraggio che si è risvegliato, aiutato anche dagli strumenti che abbiamo al giorno d'oggi, perché i computer poi nel fare le simulazioni danno un grande contributo, perché se dovessimo mettere a dire, ah, adesso mi metto qui a studiare una popolazione di 100.000 abitanti, vediamo cos'è, come, ok, chiudo il quaderno e basta. Ma ecco, questa nuova attenzione verso problemi in cui devono essere messe insieme competenze, intuizioni anche, per carità, di ambiti diversi, in questo senso qui mi sembra bello. E io spero anche di essere riuscita a comunicare il fatto che la matematica, ecco, non è qualcosa di... Poi ci sono naturalmente anche gli aspetti duri, insomma, del capire succede o non succede questa cosa, però che la motivazione dietro è una motivazione non astratta, non fine a se stessa, non è un elemento di... ma è una motivazione perché ci aiuta a capire qualche cosa che poi è qualcosa proprio anche del mondo, vero? Creativo. Quindi, però anche certo, cioè, certamente l'approccio può venire da punti diversi, tutti scientifici, però che lo studioso sceglie per arrivare. Certo, ma anche ad esempio quando si pensa, si vuole studiare un fenomeno sociale, quindi per, come dicevo prima, per dire quali possono essere le evoluzioni possibili, senza dire succederà questo, succederà quello, chiaramente il matematico traduce in qualche formula, e però lo psicologo, il sociologo, chi conosce, diciamo, i comportamenti da un altro punto di vista può dare i suoi suggerimenti, ah guarda, uno così con uno colà interagirà in questo modo, poi tu trovi qual è il formuletta, quale funzione matematica può descrivere quantitativamente quella cosa, però questo è l'aspetto. Abbiamo un dubbio, ascoltando, ma forse allora la matematica può anche servire a qualcosa? Ebbene sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Fermo restando che ho fatto prima l'esempio del problema dei due corpi, ho detto beh lì le leggi di Newton, una cosa così, beh quando l'uomo è andato sulla Luna, ha usato queste cose e in una delle prime missioni, quando non c'è stato l'allunaggio ma semplicemente la capsula è andata vicino alla Luna, ha fatto un giro eccetera così, eravamo piccoli, era la vigilia di Natale, si sapeva che stava succedendo questo, guardavamo la televisione, seguivamo queste cose, ci fu il figlio di uno degli astronauti, che uno degli astronauti non era potuto partire all'ultimo perché era ammalato così ed era sempre in collegamento con gli altri. E a un certo punto chiese a uno di quelli che stavano sulla capsula, c'è qui, non mi ricordo come si chiamava, il bambino, che mi chiede chi sta guidando. E gli rispose, beh, per la verità, Newton per adesso. Quindi la matematica è servita anche a quello. Benissimo, chiudiamo. Grazie dell'attenzione. Grazie.